Pronto? Pronto? San Donnando che parla? Sono il cavaliere La Monica, che parla? Sottizza! Ah, sei tu disgraziato, ma dove cazzo stai? So, puto pesce! La città è stupenda, piena di puto pestine! E poi ci sono anche molto zincari, molto zicana! Ci sa anche molto iulinismo, bella città, c'è Danube da gente, con denti firmamento, gulas, gulas, iacim, gulas, sempre con denun differenze. Ancora in Ungheria stai disgraziato, ma come, ti aspetti in Romania con la merce? Ma Romania? Ci pensavo di andarci più tardi, però lei non deve preoccuparsi, perché può stare tranquilla. Ha capito? Comunque, in ogni caso, il scaricamento verrà puntuale. Senta ancora un'differenza. Gulas, gulas, gulas, shamamot, gulas. Senta anche un'differenza da biscelli. O pucciato, mamma, ta sort. Senta meglio che riattacco. Gulas, gulas, arrivederci. Gulas, gulas, gulas, gulas, gulas, gulas, gulas, gulas. Pezzo di cornuzza mi fa perdere tempo. Andiamo a scoprire nel test di quest'oggi che le rockstar possano anche aiutare la grande storia del cinema. Il caso di Life of Brian, celebre film dei Monty Python, che, visto che la Warner Bros. Aveva rifiutato la produzione, chiesero a un loro amico, tra l'altro anche una rockstar, di aiutarli. Fu forse Mick Jagger come ipotizzato dalla soluzione A? Non ci siamo. Quando fa così la capisco subito. E allora fu forse Bruce Springsteen, il boss, come ipotizzato dalla B? Stessa reazione. Non ci siamo. Lui, il chitarrista dei Beatles, George Harrison, fu lui ad aiutare i suoi amici Monty Python. Negli anni Ottanta, storicamente, George Harrison era un po' boicottato dalla propria casa discografica, avendo perso fiducia come artista, fu molto contento di aiutare i Monty Python nella produzione di Life of Brian. Tra l'altro, nel corso della sua attività, fondò la Handmade Films, che alternò pellicole di successo a produzioni meno fortunate. Verso la metà del decennio, la casa di produzione di Harrison, che era comunque diventata una presenza importante nell'ambito del cinema indipendente britannico, dovette chiudere i battenti in seguito all'insuccesso di Shanghai Surprise. Una patente davvero rocker in più a George Harrison, se mai potrà sentirci, per questa bella azione nei confronti dei Monty Python. Allora, due certezze in più per oggi. Primo, George Harrison è stato un vecchio complice dei Monty Python, dunque era in grado di apprezzare alla grande l'ironia e certo, la comicità del gruppo. Seconda cosa, se avete risposto esattamente, vi siete straguadagnati i due punticini per la patente. Complimenti se non avete indovinato, continuate a provarci, restate in contatto! Ed eccoci pronti con le nostre tutine arancioni, in mezzo a dolcetti al cocco, a iniziare l'ultimo pezzettino di diretta di pane, burro e rock and roll. Abbiamo iniziato con George Harrison, citato nel nostro test attitudinale di quest'oggi, 8 e 37 minuti primi. Quest'oggi talmente oscura la Milano dalla quale vi stiamo parlando che il lampione crepuscolare ci ha abbandonato solo qualche minuto fa. Ci tenevo a farlo sapere, che so che in molti sono interessati alle sorti del nostro lampione crepuscolare. Qui c'è l'Ariele, lì c'è Spadino, di là c'è Fricantoni e voi siete da qualche parte sparsi per le città che hanno la fortuna di sentire, di essere coperte dal segnale di Rock FM. Diciamo che la puntata di quest'oggi ha un paio di filoni portanti, per chi si fosse perso la puntata 135. Uno è un radioascoltatore, si chiama Mattia, ci ha telefonato da Rotterdam, abbandonerà la città settimana prossima, però non vuole abbandonarla senza uno scherzo degno alla sua vicina di casa che lo costringe a rave party notturni di musica dance. Al 335-100-7777 sono arrivati talmente tanti messaggi che affronteremo l'argomento poi settimana prossima. Se vi viene in mente qualche buon scherzo da fare a una vicina, ricordatevi che tra l'altro lui dopo questo scherzo espatria, cioè se ne torna in Italia, quindi in teoria ci si può andare giù anche con la mano pesante. Segnalatelo e gireremo la segnalazione a Mattia. Dopodiché intravedo purtroppo un paio di casune nei nostri studi. Questo mi fa pensare che potremmo andare ad affrontare il reparto Led Zeppelin con il casù. Quindi se siete sensibili vi consiglio di ascoltare un'altra frequenza radiofonica. E in teoria la redazione mi fa sapere che dovrebbe esserci Carla, la nostra radioascoltatrice, che ci ascolta, vi ricordo, solo per i numeri dell'otto, con una nuova idea. Cioè, da quello che ho capito, diamo i numeri dell'otto con controprova. Cioè, il tabaccaio ci dà l'otto e Carla ci fa i tarocchi. Insomma, vediamo di farcelo spiegare da lei se la rintracciamo. Intanto proseguiamo la mattina, proseguiamo la nostra colazione con un bel Paranoid Black Sabbath. Black Sabbath, dannata, con Paranoid, la diretta di Pane, Burro e Rock and Roll. Allora, io devo salutare una delle nostre radioascoltatrici preferite. Il pubblico di Pane, Burro e Rock and Roll l'acclama ogni giorno a gran voce. A me spiace disturbarla anche quest'oggi, ma è un vero piacere dare il buongiorno anche in questo giovedì alla mitica Carla. Bentornata su Rock FM, Carla. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Io bene. Tutto a posto? Sì. A me spiace. Mi spiace disturbarla, ma i radioascoltatori vogliono sentirla. Sì, sì. Allora la disturbiamo. Sì. Ha già iniziato a lavorare oggi? Sì, ho già iniziato, ma sono qua in casa, tanto piove. Esatto. Tra l'altro quando piove non sporcano in giro tutto? Sporcano, ma non bisogna lavare, sennò sarebbe peggio. Esatto. Questa mi sembra un'ottima idea rock, signora Carla. Giusto. Allora, spiego ai radioascoltatori. Allora. Di solito il giovedì, Carlo, il tabaccaio dà i numeri dell'otto. Io sto giocando ancora quelli della torta. Che sono usciti o no? No, non sono ancora usciti. Io le ricordo, mettendo il dito nella piaga, che quelli che avevamo dopo erano usciti. Sì, sì. A quelli lì aveva fatto i tarocchi? No. E a quelli della torta? Quelli della torta sì. E i tarocchi cosa allora, dice? Allora, i tarocchi si fa così, sì. Il gioco che faccio io. Sì. Beh, dico i numeri, quelli della torta, no? 6, 86, 90. Sì. Poi metto giù 10 carte. Sì. Se il numero che dico esce, vuol dire che escono. Tutto lì. Esatto. E per esempio, per i numeri di oggi, che erano 33... Oggi non vengono. E come fa? 33, 79, non viene. Quindi non li gioca? No, li giocherò perché tanto è solo un nambo. Ah, quindi lei fa le carte per vedere se giocano. Anche se non escono, comunque li facciamo. Sì, ma, no, no, io lo gioco. Questo. Ma nello specifico che tarocchi... No, adesso io non li lascio più indietro, lasciate indietro quelli là verso l'anno. Quello ho capito, mannaggia. Qua non bisogna farsene scappare neanche uno, Carla, sennò... Ma poi... dato che io ne ho a diversi di numeri, perché ho i miei personali. Ecco. Ma lei ci spende un patrimonio questo numero? Ci spendo abbastanza. Mannaggia. Però ogni tanto becco. Però se martedì io adesso no, non li gioco. Sì. Perché io lo sento la televisione quando li dà. Sì, no, però diciamocelo che. Allora, quando escono? Quando escono anche quando li dà, perché io il martedì e il giovedì. Sì. Puntuale, stamattina si è messo a ridere anche mio marito quando lui parlava dei tarocchi. Sì. Che vuole farmi venire lì. Lo so. Ecco. Noi vogliamo farla entrare in una carriera radiofonica. Sì, esagerato. Prima o poi ce la faremo. Non riesco a capire come fanno i tarocchi a dire che dei numeri non escono. Cioè, che tarocchi sono usciti? No, cioè, bisogna vederlo per capirlo. Verrò lì martedì, Ce lo promette già? Sì. Allora ci fa la lettura in diretta, fantastico. Sì. Ottimo, allora l'aspettiamo. Mi spiego. Allora l'aspettiamo. Comunque, io ho fatto il giro sia del 33 che del 79, non esce niente per adesso. Peccato, mannaggia. E anche 72, 46, 30... Niente. Per adesso no. Niente. Adesso mi esce quelli della torta. Speriamo allora, continuiamo su quelli. No, io gioco quelli. Senta, una invece... volta mi viene in mezzo, una volta mi viene su tutte. Quindi può essere. Ci sta. Io non lo lascio indietro quello della torta. Ha ragione, non lasciamo indietro niente. No, non voglio fare come l'altra volta. Piuttosto ne gioco uno e vado avanti con quello. Sennò poi ci si mangia le mani. Se no faccio come l'altra volta. Quella del 10 e 12 l'ho persa. E quella del 5 e 81 l'ho persa. Sulla Carla, ascolti me. Ma ha sentito di quel radioascoltatore che è in Olanda, che deve andare via e deve fare uno scherzo alla vicina? Sì, ma non ce l'ho lo scherzo. A lei non scherzo per fare. Non ha mai fatto scherzi lei? No, no, no. Quindi... Comunque si potrebbe mettere il secchio dell'acqua e farla andare in casa, farli uscire sull'acqua sulla testa. Com'è sta... il secchio... il secchio in casa... Io non lo so se... Se quel signore lì, quella signora lì va in casa sua. Se ci va, secchio sopra la porta. Sopra la porta con un po' di acqua, ci fa la doccia. È un'ottima idea, Carla. Gliela proponiamo. Va ottimo, bene. Ottimo. Buona giornata, mi saluti altrettanto, suo marito. A presto. Salve. Yeah.

E per chi non se ne fosse accorto, siamo passati dalla versione di Black Dog col kazoo alla versione invece poi originale di Black Dog targata Led Zeppelin. Saluto tutti gli amici che hanno commentato la rubrica, come al solito evito di leggere. Siamo in iper ritardo e dobbiamo cedere il microfono al buon Marco Garavelli. Allora, di corsa, di filata, in sigla. Bravo Spadino. Ci si risentirà domani dalle 7 alle 9 del mattino. Questa sarà la nostra colazione rock. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tra-ra-la. La tua colazione rock. La migliore in circolazione. Pane, burro e rock and roll. Andiamo ad archiviare la puntata 135. Potrete riascoltarla su radiorockfm.com. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock. Per tutti coloro che hanno scritto i possibili scherzi da fare alla vicina del nostro radioascoltatore Mattia di Rotterdam, vi faremo sapere settimana prossima, vedremo di ricontattarlo. Buongiorno Marco. Buongiorno. Bello cupo oggi Milano. Sì. Scuro, scuro, scuro. Scuro, scuretto. Va bene. Porta tu il sole nelle case dei nostri radioascoltatori e ci si... Cosa fai? Benedice? Anche Fricantoni a volte benedice così. Fa così? Non ti fa bene stare vicino a Fricantoni. Infatti. A nessuno fa andate bene. Andate via allora, andate, andate. Ce ne andiamo. Ciao, ciao, a domani. Ciao, a domani. Sono in ritardo!